Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere un motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù disse: neanche io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Non ricordate più le cose passate, non soffermatevi a considerare le cose antiche. Questa frase, che è tolta dalla prima lettura di questa quinta domenica di Quaresima, oggi comincia anche il tempo di passione, come potete vedere dal segno, un tempo obbligatorio, oggi facoltativo, ma certamente importante, delle statue dei crocifissi velati, segno di lutto della Chiesa ed anche di contemplazione del vuoto in cui vivono coloro che non conoscono Dio e il suo amore. In questa quinta domenica di Quaresima questa frase sintetizza egregiamente il tema che la Chiesa vuole sottoporre alla nostra considerazione. Qual è? Prima lettura. Nella prima lettura Dio ci ricorda come Egli vuole e può fare una cosa nuova a fronte di quelle passate, di quelle antiche, e ne esplica il contenuto attraverso immagini, se abbiamo fatto attenzione, tanto eloquenti quanto paradossali. Aprire una strada nel deserto, proviamo a pensarci, come si fa a aprire una strada nel deserto? Immettere fiumi nelle steppe, sapete cosa sono le steppe, no? C'è niente, è tutto secco nelle steppe. Rendere capaci le bestie selvatiche, gli sciacalli e gli struzzi di glorificare Dio. La prima lettura, se riprendete il foglietto, dice: che significano queste cose? Ora, è evidente la portata simbolica di queste allegorie. Chi sono le bestie selvatiche se non l'immagine di un uomo che si è ridotto ad uno stato inselvatichito a causa della sua degradazione nel vizio e nel peccato? Chi sono gli struzzi, famosi animali, quelli che mettono la testa sotto la sabbia, no? Se non coloro che vivono la vita con un atteggiamento impaurito, sono incapaci di affrontare i problemi, temono di guardare in faccia e affrontare serenamente la realtà, come gli struzzi che mettono la testa sotto la sabbia. E chi sono gli sciacalli? Brutte bestie gli sciacalli. Sapete che gli sciacalli vanno a divorarsi le carni dei cadaveri, no? Sono quelle povere immagini di quelle povere anime infelici che, rose dalla congerie di miserie e di bassissime passioni di cui sono vittime, però traggono gioia o talora addirittura profitto dalle disgrazie altrui. Sembrano accorrere dovunque ci sia qualche male da condannare, qualche giudizio da formulare, qualche maledizione da lanciare, somigliano molto a quegli scribi e farisei del Vangelo che si sono accaniti contro quella povera disgraziata, che era certamente una peccatrice, come vedremo, ma accanirsi in quel modo barbaro, ecco, Gesù gli ha dato una bella lezione, tra poco ci arriviamo. Ora, Dio promette che dentro queste situazioni di morte, quindi espresse allegoricamente in questa prima lettura, di cui pullula il deserto e la steppa di una vita lontana da Dio e priva di grazia, può far germogliare la vita e addirittura la lode. Seconda lettura. San Paolo riprende tutto questo applicandolo in forma di testimonianza alla sua persona e alla sua esperienza personale di incontro con il Signore. San Paolo sapeva bene chi era stato, da dove veniva, come era la sua vita prima e dopo l'incontro con Cristo. E ce la racconta. Dice, il cambiamento è stato talmente grande che ormai l'Apostolo non pensa ad altro che al Signore. Si preoccupa soltanto di essere trovato in Lui, di piacergli, di servirlo, e reputa tutto ciò che è estraneo alla sublimità della coscienza del suo Divino Salvatore una perdita, anzi addirittura la chiama spazzatura. È tutto spazzatura nei confronti di nostro Signore Gesù Cristo. La sua vita è dimentica del passato, vedete la prima lettura, non ricordate più le cose passate, se le ha ampiamente lasciato alle spalle, il passato da fariseo, osservante della legge, persecutore dei seguaci del Nazareno che reputava una setta pericolosa e sovvertitrice dell'ordine religioso giudaico. È tutto passato e adesso si è protesi verso la meta, ossia qual è la meta di San Paolo? L'incontro finale e definitivo con il suo Signore, già da questa vita sommamente amato. Ora, queste bellissime, meravigliose, toccanti parole dell'Apostolo delle Genti, se ci riflettiamo, dovrebbero essere immediatamente fatte proprie da ciascuno di noi. Perché chi davvero ha incontrato il Signore Gesù e lo ha conosciuto, sa bene che dinanzi a Lui tutto diventa meno che niente. Il resto, ciò che non è Lui, semplicemente non c'è più, se non nella misura in cui trova in Lui senso e motivo per essere vissuto. Però il cuore ormai è altrove, Gesù nel Vangelo ce lo ricorda, dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Se il tuo tesoro è in cielo, adesso non voglio già volare al giorno di Pasqua, ma sentiremo il giorno di Pasqua la bellissima seconda lettura di San Paolo. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, pensate alle cose di lassù. Chi è risorto con Cristo non ci pensa alle cose della terra. Se pensi alle cose della terra, ancora il tuo cuore sta qua giù, ancora Gesù profondamente nella tua vita non c'è entrato. E andiamo a concludere con uno sguardo al Vangelo. Completamente opposti al cuore di San Paolo, innamorato di Cristo e che ha tagliato con una vita di fanatismo religioso, appaiono i protervi, maligni, infidi, scribi e farisei dell'odierno episodio evangelico, appunto, a mio avviso, un po' simili a sciacalli, in senso ovviamente morale, cultori della lettera della legge. Mosè aveva detto, chi vi commette adulterio deve essere lapidato, punto e basta. Quindi che cosa fanno? Prendono la legge, la sbattono davanti a Gesù, dice tipo, giovanotto, questa l'abbiamo pizzicata, quindi non è tra un sospetto, l'hanno trovata, d'accordo? Proprio nell'atto di commettere adulterio, quindi quella donna era colpevole. Adesso che facciamo? San Giovanni nota, gli avevano posto questo caso per avere di che accusarlo. Perché? Perché se Gesù dice lasciatela perdere, cosa gli dicono? Ecco qua, lui va contro la legge di Mosè, ci abbiamo ragione noi, lui è un sovvertitore, è uno che non viene da Dio, perché contraddice la legge di Mosè. E se gli avesse detto di lapidarla, dice, questo predica la misericordia, il perdono, però ha detto di lapidarla. Capite, no? Sono le classiche domande. E cosa fa Gesù? Gesù, come sempre, è il più grande di tutti, perché affronta e vince la sfida alla grande, cioè in modo assolutamente divino. Lui non scende mai quando gli fanno queste provocazioni, dobbiamo tutti imparare, a livello basso e indegno dei suoi avversari, mai. Conserva sempre quella grandissima calma e pace imperturbabile, quel sovrano dominio di sé cose che abitano sempre nei cuori che servono Dio, e non reagisce mai alle provocazioni rispondendo alle domande dirette, mai. Si mette a scrivere col dito per terra. Questa è una scena che bisogna immaginarla, no? Questi vanno lì tutti quanti infervorati, e lui si siede e si mette a scrivere col dito per terra. Quindi è un gesto, anzitutto, come dire, come di tu parli ma io scrivo. Molti interpreti, tanti, hanno pensato, a mio avviso questa interpretazione è molto attendibile, che Gesù si era messo a scrivere per terra, sapete cosa? I peccati degli astanti che lui in quanto Dio ben conosceva. Quindi ha cominciato a fare una bella lista, d'accordo? Poi siccome lo incalzavano, dice, oi, va a rispondere? Dà la famosa risposta che tutti quanti conosciamo, il proverbio, no? Chi di noi, chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. E se ne vanno tutti quanti. Attenzione che la donna, ricordiamolo, era colpevole, non era innocente. Qual era il problema di questi farisei? Che non avevano ben compreso due cose. Primo, che tra di noi nessuno può ergersi a giudice implacabile dei peccati altrui per due motivi. Quelle due cose che non avevano capito. Primo, perché nessuno di noi ha l'autorità per poterlo fare. Chi è che giudica e condanna gli esseri umani? Dio lo fa questo qui, non noi. Noi possiamo dire sui comportamenti questo è giusto e questo è sbagliato. Sicuramente quella donna non aveva fatto una cosa da lodarsi, aveva commesso adulterio, ma la condanna la pronuncia nostro Signore, della persona, non un'altra persona. Questo anche perché, secondo motivo, non solo nessuno di noi ha l'autorità di poterlo fare perché nessuno di noi è Dio, ma nessuno di noi ha il diritto di farlo. E questa è la lezione che dà Gesù, perché tutti quanti noi, pur a diverso titolo, in grado differente, siamo peccatori. Per questo che Gesù ha risposto a quella domanda. C'è qualcuno che senza peccato, bene, si accomodi, se hanno avuto almeno un minimo di ritegno di andarsene. Ora, Gesù intima all'adultera che era colpevole di non peccare più, perché sapete che il non voler peccare più è una condizione fondamentale per ricevere da Dio il perdono anche delle più gravi colpe. Essere pentiti dei peccati commessi significa provarne dolore ed essere fermamente risoluti a non commetterne mai più. Questo ricordiamolo quando ci andiamo a confessare, perché se non ci sono questi due elementi, anche se il sacerdote alza la mano, il perdono di Dio non arriva, Dolore del peccato e proposito fermo di non peccare più. E questi accusatori se ne sono andati, e che fine hanno fatto? Si saranno convertiti? Avranno abbandonato il loro modo di pensare? Molto difficile che cuori di questo genere abbiano abbandonato le condotte antiche o deposto la loro arrogante superbia. Probabilmente loro appartengono a quella categoria di coloro che vogliono rimanere sciacalli e bestie selvatiche, tornando alla prima lettura, brancolanti nella steppa, non aperti ad accogliere la divina misericordia. Invece questa povera peccatrice colpevole torna a casa, perché comunque pentita, rivestita delle vesti nuove del perdono e della grazia. Queste vesti, amici carissimi, e concludo, sono riversate a chiunque abbia imparato un po' di santa umiltà e sappia riconoscersi un povero nulla, profondamente bisognoso di salvezza, e quindi invochi con fiducia e amore colui che sa fare nuove tutte le cose. Nel Salmo responsoriale abbiamo cantato, o meglio recitato tutti insieme, questa bellissima frase: grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. Ecco, soltanto chi è umile e si riconosce come la peccatrice bisognosa di salvezza potrà cantare con giubilo queste splendide parole: grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.